Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. Questa trasmissione è registrata, non per motivi tecnici né per motivi di carattere politico, è registrata perché sul centro sociale fa un caldo da pazzi, per cui preferiamo farla registrata. Vabbè, non è professionale, però siamo esseri umani. E là veramente tra calvo e zanzare, vabbè, è veramente una resistenza. Vabbè, comunque, scusatemi di questa mia confessione. Comunque, la trasmissione di oggi verterrà sulle mobilitazioni che ci sono state e ci saranno contro i C20. E diciamo, fare una carrellata e anche il significato di questa mobilitazione contro i grandi della terra, proprio, specie a 20 anni da Genova e dalla morte, dall'uccisione di Carlo Giuliani, ci sembra doveroso approfondire, anche perché questa mobilitazione contro i C20, ricordiamo sempre in una fase storica molto delicata, la pandemia, che sta segnando politicamente, sta segnando tutta una serie di scenari internazionali e ci sta segnando anche politicamente nelle nostre forme di resistenza. Però inquadrare anche queste mobilitazioni contro i C20 che sono state da Venezia, Bari, Napoli, ci sembra doveroso perché possono rappresentare base di partenza per cercare di rimettere in moto quel ampio movimento di opposizione politica sociale. E a proposito voglio ricordare che dal primo all'8 agosto ad Ostuni ci sarà il campeggio proprio su tutta una serie di varie tematiche, dal TAP, grandi opere, colonizzazione del sud, le questioni internazionaliste. Quindi per le compagne e i compagni che magari seguono Radio Asilo e vorrebbero anche fare una sorta di passare 3 giorni e una settimana o dei giorni, chiamiamolo turismo intelligente, ma sarebbe una cosa bella. Momenti di socializzazione, momenti di analisi e approfondimento politici. Ricordiamo, si svolgerà questo campeggio dall'1 all'8 agosto. Allora, cominciamo a fare, a proposito di questi dei C20, dai C7 o C8 ai C20, facciamo una carrellata, insomma, no? Perché diciamo, appunto dalle mobilitazioni internazionali contro i vertici dei grandi della terra, il biennio, diciamo, 1999-2001 rappresentò un biennio di forte mobilitazione a livello internazionale. E infatti vediamo che il primo appuntamento internazionale del movimento di opposizione nel neoliberismo avviene nel novembre 1999 a Seattle, dove decine di migliaia di dimostranti invadono la città in occasione della conferenza del World Trade Organization, il WTO, e nonostante che fu dichiarato il coprifuoco, avvennero scontri in piazza molto forti e i manifestanti riuscirono ad interrompere il vertice. Poi a Washington nell'aprile del Benin in concomitanza del G7 delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, il movimento antiglobalizzazione mobilitò decine di migliaia di persone che si scontrarono con la polizia, che caricò duramente i manifestanti per impedire che i manifestanti raggiungessero i luoghi in cui si svolge il vertice. La guerriglia urbana è durata fin quando l'incontro non finì. Poi abbiamo nel settembre del 2000, è il momento di Praga in Europa, in occasione del nuovo incontro del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Nella città decine di migliaia di persone, molti provenienti anche da tutta Europa, si scontrano con le forze dell'ordine locale, però i fatti non hanno una risonanza europea. Il mese successivo a Montreal si unisce il G20 con i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali di 20 paesi, dei 20 paesi più industrializzati. Anche qui decine di migliaia di giovani e di cittadini scendono in piazza per contestare e possibilmente di impedire il vertice. Ci furono scontri e la città fu sconvolta dalla guerriglia. A Nizza dal 7 al 9 dicembre si riunì il Consiglio europeo, il vertice dei capi governo dei 15 stati. Fu l'occasione per portare in piazza, nonostante il blocco delle frontiere, decine di migliaia di manifestanti che contestarono i potenti dell'Europa e si scontrarono più riprese con la polizia in assettanti sommosse. E poi abbiamo nel gennaio 2001 il forum dell'economia mondiale di Davos, dove il presidente Davos, il presidente Bill Clinton degli Stati Uniti d'America, approvò il WTO e lodò la globalizzazione. Ci fu una grande mobilitazione del movimento dove partecipò anche John Bowen. Poi abbiamo a marzo sempre del 2001 per il vertice internazionale, Global Forum, sotto la regia del ministro Bassanini, più di 40.000 giovani affluiscono in città, scontri durissimi tra manifestanti e polizie che si fronteggiavano per un'intera giornata. A Quebec, nell'aprile, a Canada, si ritrovano i presidenti e i governatori del nord e del centro-sud America, 30.000 dimostranti contrari alla possibile estensione del trattato di libero scambio della nafta si mobilitano e assediano il vertice. Anche qui scontri di piazza che diventano incontenibili. A Gothenburg nel mese di giugno si svolge il Consiglio europeo, dove tra l'altro si discuteva delle misure per salvaguardare gli ambienti. Gli scontri con i manifestanti sono molto duri, la polizia spara, due ragazzi rimangono feriti per i colpi di pistola, di cui uno in fin di vita. E poi abbiamo Genova, in quel 2001, che rappresentò la sintesi di tutto quei movimenti che precedettero Genova, ricordiamo Paolo Giuliani, e poi l'11 settembre, ricordiamo, avvenne il famoso 11 settembre. Come dicevamo prima, a fine luglio è la volta di Genova. Sempre in nome di Carlo Giuliani. E questo, diciamo, questo appuntamento di Genova in pratica fu la sintesi di tutte, diciamo, queste mobilitazioni anticapitalistiche che la Seattle, abbiamo detto, da Seattle poi alla fine, iniziata da Seattle, che poi hanno